più importante, del cittadino. Ed è più importante, è più importante per raccontare. In el bit, sveglia in el bit, le io che tu vado, vuoi essere un scelto, vuoi essere un medico, e io qua affirmo. In el bit, le io che tu vado, vuoi essere un scelto, vuoi essere un medico, e le io qua affirmo. Cosa fai? In el bit, le io che si va da te, vuoi in el bit, le io che va da te, vuoi essere un scelto, vuoi essere un scelto, vuoi essere un scelto, لكن يقرأ كيدخل بيته لأن قال بيته لا يقع في الفقر زيد بركة للأمة.